Buonasera. Buonasera a tutti quanti. Abbiamo già subito un fail perché tu stai facendo partire la trasmissione senza scaletta. Com'è? E dove? Vabbè, ma detto nel frattempo dobbiamo casseggiare un po'. Sì, è chiaro. Quindi... un fail. Vuoi arrivare? No, e l'ha lasciata in macchina. Qua pensiamo a mangiare. Lo vedete? Cioè... ecco, ma è la bene, colpa di Stefano Fail. Buonasera a tutti quanti. Siamo i Mozilla Bros. E metteremo il gatto Nian come primo che parte. Che cazzo? Sì. Anche come secondo, perché non so se facciamo in tempo finché va a prendere la è spalla. Capace che si è dimenticato la... è capace la che... guarda come fa... è capace che... Marica, forse voleva dire... Marica si è scordato la pennetta all'università. E poi siamo fottuti. Comunque, buonasera, siamo i Mozilla Bros. Siamo in missione per conto di Gesù e di Luca Bruno, soprattutto. Ma anche no. Oggi. Sì. Sono la stessa persona. Siamo ritornati in trasmissione qui dopo, come al solito, il mercoledì a Radio Giroma 105.7. Potete trovarci in streaming a quest'ora sul nostro sito che è www.mozillabros.com oppure sul sito di Giroma. Sì, diciamo, guadagniamo un po' di tempo ricordando anche esatto. Gli altri contatti a questo punto. Se volete chiamarci in diretta al telefono potete farlo al 0984 28 250. Bravo. Ma io mi ricordo i numeri. Poi c'è la nostra mail che è tipo info@mozillabros.com. Davvero? Sì. Tra l'altro c'è forse anche mozillabros@autistici.org. Esatto, questa qua che no, non sono magari sicuro, se è autistici o inventi. E controlla proprio. No, ma tanto abbiamo Twitter pure. Abbiamo Twitter, il nostro contatto, il nostro utilissimo e spammatissimo contatto Twitter che ci segue e seguiamo Obama, al quale abbiamo detto Arucu l'altra volta. Abbiamo il cantante. Il nostro account Twitter è @mozillabros. @mozillabros. Ci potete trovare anche sotto il nome di Natale Vinto, penso. E siamo anche in replica su Radio Transizioni Fast. Esatto, il lunedì alle 20. E poi dovremmo essere pure su Fuori Onda Radio, però non, cioè, però non ricordo davvero. Tu che hai fatto lo script. Il cazzo dello script. È sicuro il venerdì. Cioè, dovete sapere che ci l'ha fatto due giorni. Un programmino che ha una data ora, un dato giorno, fa partire la nostra trasmissione di replica su questa radio. Lui non si ricorda che ha fatto, no, vabbè, allora non ho fatto il programma mio, Cron, però non riesco. Allora, venerdì sicuro. L'hai settato tu. Venerdì dovrebbe essere alle 18:30. Venerdì alle 18:30. Comunque siamo se seguite, se siete tra i pochi che purtroppo seguite Fuori Onda Radio, potete trovarci anche lì. Non ho presentato i nerd, i bluesman della situazione. In sala regia ci sono Ciccillo. Buonasera, l'avevo già detto. Il nostro Sendai. Poi c'è un spridante cantante iper puntuale che dice ci dirà il sì, suo. Ormai sta, diciamo, non è più uno special guest, è proprio Ciotta Ciambotta. Sì, ha capito come funziona. E saluta il cantante. Buonasera. Esatto. E poi c'è Marinette. Da Andrea. Dov'è Marinette? Ciao. Quando c'è, ci ha pregato di ricordare che quando c'è lei ci sono anche le birre. Sì, quindi, sì, se no voi. Noi la vogliamo in trasmissione più spesso. Non abbiamo la scaletta. Non abbiamo la scaletta. Io ti uccido. Un grande fail. Quindi passerò metal tutta la giornata. No, cazzi vostri. Il gatto Nian, vorrei dire. Ce l'hai tu, Cole? No, veramente. No. Aspetta. A me non ha detto niente. Super fail. Super fail. E da questo lato blues della radio ci sono. C'è Paolo Blues che sta, se la sta sghignazzando da prima perché no. Con tutti questi fail. Lui che è fail numero 2, da 2, sì. Che Stefano è stato in cattedra prepotentemente. Lo sta proprio spodestando. Il nostro Petrona Boys number 1. E c'è il Petrona Boys number 2 che è un po' nella merda. Magari ci fai un saluto, ti calmi. Sì. Vabbè, ma se non abbiamo la scaletta, facciamo fare 15 pezzi al cantante, non è un problema. Manca l'altissimo Andrea Blues, che è partito dall'università prima di noi, ancora deve arrivare. È partito alle 5 dell'università. E noi ancora, noi siamo arrivati qui tipo... E anche Sgandalf Garulf dovrebbe arrivare. Speriamo che Sgarulf brava. Vegarulf. E poi c'è il vostro Lorenzo Blues, come al solito, che vi presenta i componenti. Io direi che possiamo... E l'abbiamo trovata, incredibile, abbiamo trovato la pennetta che Cicillo ci aveva sapientemente dato per custodire i pezzi della trasmissione, ovviamente scaricati da internet. E possiamo partire con il primo pezzaccio. Sì, possiamo partire, ma... Eh già, chi ci vuole? Ah, un attimo, che c'è, c'è un po' di gattonaia. Ah, io vorrei fare un saluto al nostro tossicodipendente preferito, Luca Bruno, che è diventato tossicodipendente da un simpatico giochino. I Pokémon. No, in realtà si chiama League of Legends. Continua a scrivermi messaggi sui suoi strabilianti punteggi, lo salutiamo. Gli auguriamo presto di uscire da questa brutta malattia. È arrivato Stefano Fail, che si è calmato, Stefano Blues Fail, che si è calmato dopo essere palesemente entrato in panico per non aver trovato quella pennetta, perché sarebbe stato scorticato vivo. Beh, in realtà, ci siamo. In realtà io sapevo dov'era per farvi impanicare anche a voi. So recitare, vero? Cacarella. No, cioè, per me era metal puro da questa puntata. Cacarella. Non lo so. Ma guarda, non sarebbe stato metal puro anche se io te l'avrei appoggiato. Cosa? Questo metal puro. Sì, Livi metal. Livi duro. Però c'avevo la scaletta sul computer, quindi... Aro culo in un caso. Aro culo. Partiamo? La ballata di qualcuno è questa. Sì, sono i Lion Skynyrd. Bellissimo. Oggi abbiamo fatto una scaletta un po' particolare. Verte molto sul rock. Abbiamo qualche pezzo di vecchio blues. I Creedence. Sì. Gay proprio. Va bene, partiamo col primo pezzo, dai. Natale, perdonaci. Well, I used to wake the morning before the rooster crow, searching for soda bottles to get myself some dough. Run them down to the corner, down to the country store, cash them in and give my money to a man named Curtis Lowe. Was a black man with white curly hair. When he had a fifth of wine, he did not have a care. He used to own an old dobro, used to play across his knees. I'd give old Kurt my money, he'd play all through me. Play me a song. To ever play the blues. He looked to be 60, and maybe I was 10. Mama used to whip me, but I'd go see him again. I clapped my hands, stomped my feet, tried to stay. You'd play me a song or two, then take another drink of wine. To ever play. Rieccoci in onda. Kid Rock. Gay. No dai, non era gay. Gay. Perché? Poi Queen quasi. Che pezzaccio direi. No. Vabbè, su chi un pezzaccio. Su chi pezzaccio magari. Gay ma un pezzaccio. Ci andrei piano. L'abbiamo sempre passato noi, quindi dovrebbe essere di default un pezzaccio. Però diciamo che non siamo sessisti, quella battuta. Come dire negri. Non è che siamo razzisti. Come dire Cristo. Non è che siamo anticlericali. No, no, no, quello sì, sì. Quello sì. Io mi dissocio dalle offese di Marco. Ma vabbè, Marco è tipo è sballato di default. Ne guardo proprio bene. È dissettato di default. Beh, che cosa c'è da dire su questi Lynyrd Skynyrd? Leonard Skinner. Perché Leonard Skinner? Allora, intanto senza ridere, premettiamo che il primo album si chiama Pronounced, cioè il titolo incita a una corretta pronuncia del nome, nome della band. Sì, quindi perché comunque iniziamo bene. Se lo vedete è scritto, cioè tipo LYNRD, cioè di Y, sì, sì, c'è scritto solo Y. Questo perché esatto. Sono i classici redneck, i bifolchi del sud che non sanno scrivere. No, vabbè, poi sono io il razzista, no? Bifolchi esatto. Del sud. Vabbè, io di dove sono, scusa. Sei un bifolco, lo sappiamo. Ah, che quindi pronounced, stai dicendo? Pronounced Leonard Skinner, ovvero Leonard Skinner. Ma ovvero lo dici tu oppure ovvero è vero? No, ovvero è vero, è un personaggio, diciamo, un professore di un liceo. Sì, è un professore di un liceo che odiava i capelloni. Ah, fantastico. Sì, era proprio. C'è da precisare. Li reprimeva. C'è da precisare che loro erano tutti quanti capelloni. Esatto. Cioè, quindi loro, penso per ripicca, per ironia, come vuoi chiamarlo, per provvidenza, si chiamarono Leonard Skinner. Che è morto nel 2010. Quindi. Suca. Meno male. Suca, è proprio. Meno male perché, insomma. Sì, vabbè, comunque tra le tante cose che c'è da dire sui Leonard Skinner, che non sono proprio i classici bravi ragazzi, insomma, neanche i classici antirazzisti che magari ci fanno tanto, cioè dei quali siamo tanto orgogliosi. Infatti il loro stemma è proprio la bandiera confederata, la bandiera sudista, che è indice di razzismo in America. Una svastica. No, solo pezzacci in Mozilla Brossa. Sì, no, andiamo a passare la musica, Cuore Nero, sta roba qua. La musica che fanno, la canzone che abbiamo passato è proprio la testimonianza sull'importanza dei temi che riguardano il razzismo. Cioè, un elogio al razzismo? No, anzi, anti-razzismo. Cioè, testimonia una profonda sensibilità su questa tematica. Li hanno obbligati? Questo non, cioè, non lo so, però magari è possibile. In realtà, se un gruppo fa un pezzo, perché credo senta dentro, cioè, sia animo comune insomma della band portare avanti determinate tematiche, determinati interessi, no? Voi che avete suonato in diversi gruppi, avete fatto anche pezzi vostri, pezzacci. Beh, vostri, dovreste sapere, tipo il pezzo dedicato a Mario Redbone. Stavo alludendo a quello, perché comunque sia non voglio paragonarmi assolutamente a Leonard Skinner. Chiara miseria, cioè voglio. No, vabbè, ma chiaro. Però abbiamo scritto un pezzo su un bluesman che suonava. Cioè, abbiamo avuto la stessa idea. Un bluesman di Petronà? Un bluesman di Petronà. Che è? Bluesman, ha conosciuto tutti. Jim Morrison. Jimmy Page. E gli ha detto non te curivare. No, ha conosciuto la regina d'Inghilterra. E gli ha detto non te curivare. Cioè, non te curivare significa non te la prendere a male, insomma. Non perché ammusarti. Non ammusarti. Perché Jimmy Page, dovete sapere questo strano fatto, Mario Redbone di Petronà era ad Amsterdam in un locale e c'era, esatto, Jimmy Page che voleva andare a sparare a uno. Esatto, allora, era incazzato nero, aveva la pistola, la rivoltella, voleva andare revolver nelle mani. Tu queste cose dovresti sapere mani, perché sono amici tuoi, Mario Redbone. No, sono curioso. E allora va da questo qua e le fa, poi Jimmy, non ti curriva. L'ha preso da parte, chiaramente. Immagino che Jimmy abbia capito. L'abbia, sì, e soprattutto gli ha dato retta. Questa è una secondo cosa me ci ha ammiato prima in un ceffone, no. E poi ci ha detto anche una cosa. No, vabbè, non raccontiamo il fatto di Jim Morrison perché potrebbe magari risultare un po' più scandaloso, esatto, riguardo a quella. No, a sto punto io. No, davvero. Ormai io grazie salutiamo Garulf. Arriva gente. È arrivato il bacio dell'acqua. E le genti proprio. Sono arrivate tante genti che salutiamo. Conosco Delinda di questi qua. Ciao. È arrivato anche l'altissimo. L'altissimo. Sì, diciamo chi l'ha visto. E quindi passiamo al prossimo pezzo che no, che io voglio un tarallino. Baby one comunico more time dovrebbe essere. Cosa state dicendo? Io babati. Arriva il frappè. No, dovrebbe essere. È arrivato il blues al completo adesso. Ciao a tutti. E vieni via. Beh, Lorenzo Blu, quindi chi passiamo? E mo ci dovrebbe essere il secondo. Petrona Boys, ciao. Come state bene? Chi bu? Io stavo raccontando aneddoti. Chi sta con Dan? Conda. Stavo raccontando un fattaccio di Mario Redbone. Cultura della storia del rock. Che realmente non esiste. No, secondo me sono esistiti. Cioè gente. Beh, già secondo te, quindi. Gente storica di sono accaduti fatti che non sono accaduti. Esistono cose che non esistono. Parlano persone che non parlano. Insomma c'è Gesù, esatto. Quindi il pezzo è Le chiavi negre. Ma io veramente volevo dire un'altra cosa su Lionel Skynyrd. Ma dilla. Che sono stati scritturati dalla MCA in un locale chiamato Funocchios. Non so. Prendiamola così. L'ho detto che erano gay, è la prima cosa che ho detto. Secondo me non è una coincidenza il fatto che l'abbia detto tu. Ah, bene. L'insistenza con cui l'ha voluto dire, diciamo, certo, lascia no, pensare. Ci tengo per queste cose. Vorrei dire pure io una cosa sui Lionel Skynyrd. Volevo dire Key Blues. Allucinanti. Più o meno. I tuoi interventi sono sempre pieni di pathos. Che pezzo. Passiamo al prossimo pezzaccio. Passiamo alle chiavi nere. Sì. Sì, le chiavi nere. Andiamo? I Black Keys sono questi qua. Perché rovini sempre il gioco? Anzi, le chiavi negre, si capisce, sono le Black Keys. Anzi, dovrebbero essere le nigger. Nigger, negre. Ma forse a rossa. Ma magari no. Da in Alabama. No, vero, Cicci? Che cosa? Peppa dentro è proprio bah. Aiuta a mamma, però. Vieni a sedere nel blues. Let the blues go. See you later. carabiniere. Blues. Chi blues? Ah, questo è tutto quello che avete da dire su questo pezzo. Non è vero. Cioè, lo Ballo potevo blues. Dire pure io. E dillo io. Chi blues? Ma non è la stessa. Chi pezzaccio? Non è la stessa. Questi sono i Black Keys, che ricordiamo saranno in concerto a Torino in Italia i primi di dicembre. Il primo di dicembre. E noi vorremmo sinceramente andarci. Ma non lo farete. Spero proprio di andare. Questo è un gruppazzo che dimostra che il blues non è morto tutt'oggi. E non morirà mai. A farsi, ovviamente, ci siamo noi. Ma oltre a noi ci sono gruppi come i Black Keys che si danno alla grande. Si prestano, sì. Pure tu ti dai. No. Però alla radio lui prende. È una cosa interna. Lui prende, c'è chi dà e c'è chi prende. Lui è quello che prende. Diciamo alla grande. Alla grande. È un doubt death. Doubt. Di noi. Ok. Beh, da Cicci, tu lo dai pure? Come ti poni? Sì, preferisco darlo, diciamo. Sì. Ma perché guardi da Lorenzo Blu? Io sto guardando te. Stiamo calmi. Lorenzo è l'altra faccia della medaglia. Dovremmo mettere una web. Dovremmo non mettere. Comunque, ciancio le bande, passiamo. Ecco qui, lo vedi che sei un volgare. No, era perché l'altra puntata è stata com'era? Era non mi sono perso sto umorismo della terza elementare. Cristo? Esatto. Cristo è la risposta giusta? Ho vinto. Esatto. Praticamente un crucifix. il nostro sponsor. Sì. Crucifix. Ce lo vuoi ricordare, per favore? Posso quello che soppianterà il super attack. Perché? Per quale motivo? Lo slogan lo deve dire qualcuno con una certa cadenza. Andrea Blu. Blu, proprio. Non ti sento perché non ho le cuffie. Ti bacompri. Che cosa? Le cuffie. Dare la professionalità della nostra trasmissione in cui gente parla senza ascoltare quello che dicono gli altri. Mille in regia. Vabbè, smettiamo di parlare di queste cose e passiamo alla tematica nerd. Ci sono più birre che persone. Mi sento, voglio, è bellissimo. Passare da uno stato di non udito a sentire la vita. Oh mio Dio. È veramente famoso. Che cosa gli hanno fatto? Ma che cosa gli hanno fatto? Ray Charles avreste riacquistato la vista. Sì, sì. Oppure come se Beethoven ritornasse. Chi? Un po' agli albori. Albori? No. Ma anche no. Un po' come se resuscitasse Mike Buongiorno, cioè più o meno. Un po' come un imminente blues. Se arriva. Vabbè, dai. Ciancio alle bande. Andiamo alla Cioncia. Ciancio alle bande. Picchi. E poi è diventato bando alla Cioncia. E poi Ciolla al Cristo. Vabbè, dai, io stacco un musicale 10 secondi e riflettiamo su quello che abbiamo appena detto. Beh, dopo che ecco qua, no, staccato musicale, no. Lo dedichiamo a Luca Bruno. E su questa musichetta allegra a noi tanto cara, una morto notizia. Il gatto Nian. Una notizia. Devo fare una petizione. Ah? Il gatto Nian. Gatto Nian, sì. Una notizia non tanto allegra. Ovvero, in 448 oggi hanno fatto sto super processo ad Assange, che è durato proprio una decina di minuti, in cui hanno... Super processo 10 minuti. Sì, sì, sì. Vabbè, perché è stato lunghissima la preparazione, cose, però alla fine, sintetizzando, gli hanno detto a Ruku, devi andare in Svezia a farti processare per questo fantomatico reato di violenza sessuale. Ora, infatti, ricordiamo che Assange, guarda caso, poco dopo i rilasci, non ricordo se dei file sull'Iraq o se dei cablogrammi, ma mi sa. Vogliamo ricordare un attimo chi è Assange? Come dire, ricordiamo chi è Cristo. Gesù di Nazareth. Dai, Assange. Vabbè, dai, Assange. Il fondatore di WikiLeaks. Il canale di WikiLeaks. Alf, vuoi ricordare WikiLeaks? Perché una cosa è libera, sei libera. Che cosa gli è successo a quello? Vabbè. Comunque, praticamente era stata richiesta subito dopo, appunto, dicevamo, questo rilascio che ha fatto tremare molti poteri forti. Hanno ben deciso di farlo accusare di violenza sessuale. Che poi tutti dicono violenza sessuale, ma diciamo è un po' diverso da come la intendiamo noi qui in Italia, almeno la violenza sessuale. Infatti sembra che La tipa con cui ha avuto questo rapporto sessuale era consenziente, ma voleva il profilattico, lui no, non si è capito. Però diciamo, queste cose qua in Svezia bastano per far scattare un procedimento di violenza sessuale. Sì, diciamo, riprendendo l'articolo di Punto Informatico, ci sono nell'ambito di questo rapporto sessuale particolari non concordati, e questi cioè queste sono proprio le parole dell'articolo. Mettersi il preservativo è un particolare non concordato. Ripeto, sono particolari non concordati che però rientrano nella sfera degli abusi in Svezia e quindi è stato incastagnato per questo motivo. Cioè, questo qua è un tizio. Sì, comunque giusto, perché visto che stiamo inquadrando un pochino la situazione dal largo e vogliamo fare una cosa abbastanza generale, bisogna magari ricordare anche che grazie a WikiLeaks si è scoperto che due americani, guardando dei giornalisti che scappavano, hanno deciso va, spariamoli, uccidendo e sparando su bambini, che non è una cosa tanto bella, e si è scoperta grazie a WikiLeaks. Esatto. E questi militari sono stati assolti. Ma perché poverini avevano, a parte che mi sa che si sono dichiarati incapaci di intendere di valere. Ovviamente il video si trova, sì, che è molto molto crudo, perché c'erano sti tipi che guidavano sto elicottero, però a quanto pare erano incapaci di intendere di volere, e hanno confuso una macchina fotografica con un Kalashnikov. Hanno detto... Eh sì, perché la differenza è lì, no? Eh sì, e poi anche quando c'era la gente a terra che stava per morire, si è fermato un furgoncino per tirare sui feriti, e noi ci siamo, ma spariamo anche a quello, però dentro c'erano bambini che stavano andando a scuola. Però, a parte questi dettagli... No, facciamo Giuliano... una fotografia anche a quello, no? Visto che... Sì, già che c'eravamo. Voglio dire, dopo, scusa, ti danno un elicottero, non lo vuoi usare? Chiaramente. È pure comprensibile. Quindi, a quanto pare, è stata approvata l'estradizione in Svezia per questo reato, però il problema principale è che poi la Svezia potrebbe a sua volta approvare l'estradizione agli Stati Uniti, e là Assange rischia parecchio anche l'ergastolo, la pena di morte, visto che... Ha detto le cose come stanno. Ha detto le cose come stanno. Ha detto le cose come stanno. Ha fatto vedere al mondo le cose come stanno. Però la colpa è stata questa. Sì, però là a quanto pare è un reato tipo di collaborazione col nemico. Vabbè, pure qui è un reato. Vabbè, ma là se la pigliano proprio seria. Dire la verità. Sì, però qua non c'è la pena di morte, è diverso. È un errore della, diciamo, nostra giurisdizione. Tu non suggerirglielo. Cioè, in pratica stiamo dicendo, e mi state dicendo, che questo qui, che comunque ha mandato a fanculo praticamente il governo americano, sta per essere... cioè, gli è stata concessa l'estradizione, gli è stata data l'estradizione perché ha scopato con una. Cioè, perdonatemi la crudezza, ma è per questo. Sì, ha avuto sto rapporto e poi questa qua è andata a denunciarlo dicendo, insomma... Ah, voglio dire, diciamo, la cosa non è che si sta sminuendo il fatto del rapporto, però si vuole usare questo fatto dell'abuso sessuale come cavallo di Troia per poi farlo estradare negli Stati Uniti, dove lì attende sicuramente un processo e delle conseguenze più pesanti. Non noto come troviamo le parole giuste, cavallo di Troia, cioè, siamo dei grandi comunicatori, diciamocelo. Comunque ci sono ancora due settimane in cui possa fare ricorso per un cavillo legale basato sull'interpretazione internazionale di una legge. Speriamo per lui che vada bene. Comunque WikiLeaks, cioè, e anche queste cose qua dimostrano come la struttura stessa di WikiLeaks soffra di grosse, diciamo, limitazioni. Il fatto per esempio che sia comunque centralizzata, cioè... sono quelli di WikiLeaks. Poi Assange è anche stato criticato per il suo un po' dispotismo, diciamo, che comunque può mettere in crisi tutto questo sistema di rilascio di soffiate. E io direi, prima di passare il prossimo pezzo, per i più curiosi andate a cercare sul vostro motore di ricerca preferito GlobalLeaks, che invece è un progetto che sta nascendo adesso. Ci sono anche parecchi sviluppatori e hacker italiani impegnati in questo progetto, che dovrebbe porre rimedio e ampliare di molto anche le potenzialità di quello che era WikiLeaks. Il grande WikiLeaks. Oh, se non è un blues questo di Julian Assange, cos'è? Cioè, bel blues. Se non è un blues. Tristissimo blues. E dopo queste verità buttate così alla mercé, inopinabile direi, di tutti i nostri ascoltatori, da parte del nostro grandissimo Ono, noi andiamo avanti con la nostra playlist. Ale. Ed è il turno dei Creedence Clearwater Revival, un grandissimo gruppo. E chi pronuncia? Direi, scherzo, ragazzi. E con questo direi che comunque tagliamo il cordone dal rock, vero? Perché poi dopo ci sono pezzi sul... Lo vogliamo tagliare jazz. Dopo? Lo possiamo tagliare anche adesso, se vuoi. No, dai. Mettiamo questi Creedence, che è un bellissimo pezzo suggeritoci da Stefano. Ma prima lasciamo fluire questa serie di rock, poi magari tagliamo il cordone. D'accordo, chiudiamo così quindi con il flusso rock di oggi nei Mozilla. E Lorenzo, lo vuoi dire tu? Questi sono i Creedence Clearwater Revival con... Lo puoi dire benissimo tu. Ormai l'hai fatto. Up Around the Band, Creedence. Ma the band che vuol dire? Voglio scusare. Il piegamento. Il piegato. Sicuro? Perché cosa si vuol dire? Che vuol dire? Ma dici? Vabbè, va. Ma dici? Siti guaglione. Alza un palo. Udite, audite. È buono. Furono giorni di stanchezza assurde, depressive, di una totale mancanza di lucidità. Quando ti chiedi in qualche letto sconosciuto che cosa hai fatto e perché vivi in tanta estraneità, sapessi che dolore l'esistenza. E questo era per i nostri amici che ci ascoltano, Vincenzo, Ciccio, Walter e company. Petronà Forever con noi, un abbraccione. Non potevamo che accoglierli in questo modo. E questo è anche un'ottima intro, direi, per proporre il nostro special guest, che oramai è diventato fisso. Ci ha privilegiato in questo modo la sua presenza, oramai stabile. È proprio un Mozilla Bros a tutti gli effetti. Direi è usato. Un Mozilla Bros. il nostro Singer Bros. Buonasera Andrea. Well true. Che buonasera. Diciamolo, inaugura well una true, nuova System Out. Buonasera. Inaugura una nuova rubrica che sono le notizie di Cosenza. Buonasera. Cosenza News. Una botta finale, che se non ci voleva però. Cosa che è caduto il cornicione del sindaco? Non è mai capitato, è la prima volta. Vabbè. Adesso viene a Capodanno invece, è caduta prima. Dopo è caduto, dopo è Capodanno. È una miseria. A questo punto potremmo dire, chi news? È la profezia dei Maya. Ma tu non passavi sotto, vero? Altrimenti... no, ti cadeva il barcone in culo. Forse Barbanera sarà. Forse qualche... Ah, il famigerato Barbanera. Cose storiche. L'intraprendente Barbanera. Cicillo è sterrefatto. L'inenarrabile sguardo di Cicillo. Cicillo, che è Barbanera? Sono io Barbanera. Sì. Cioè, per chi non conosce Cicillo, i pochi pazzi di voi che non conosce. Mi hai gettato gli estime su sindaco. I pochi pazzi di... Perché, poverino? Sto facendo cose buone. Sto facendo cose buone. Vabbè, poi ne parliamo. Sì. Taralli, poi. Esatto. Sindaco dei Taralli. Ottimi quelli. Per chi non conosce... Già Barbanera è uno che prevede tutto, temporale. È un oracolo, è un oracolo. Di una volta. Di una volta. C'è pure il calendario, vendono. E di c'è pure un frate indovino, che è di Perugia. Vendono pure il calendario. Io comincio ad avere paura di Cosenza. Un talento di famiglia, diciamo. Esatto. No. Bene, bene, bene. E con cosa rientriamo? Con cosa rientriamo? Con Jimmy. Niente, c'era Andrea che voleva fare un ritorno sui Creedence. Una riflessione. Di cui abbiamo già parlato. Sì, non ho Wikipedia davanti. Quindi non possiamo vista, ma che cosa dire, è uno di quei gruppi. Hip frappè, mamma mia. Bello proprio denso, questo frappè. E i Creedence, ne abbiamo già parlato, Lorenzo, ma ovviamente non ci stancheremo mai. È uno di quei gruppi, a me piace dire a cavallo, proprio fare il gesto proprio del cavallino. Sì, a cavallo. Tra il blues degli rock. Anni 60 e il progressive. Diciamo che è il blues degli anni 50. Addirittura progressive. Sì, con riflessi. Cosa ne pensi, Paolo? No. Tu sei, che sei critico, che sei chitarrista della situazione. Stavo valutando la tua riflessione. Tu che sei loffio, diciamo. Cosa ne pensi? Tu che sei loffio, molto... Io direi loffio, molto loffio. Molto progressive, volevo dire. Loffio, lo dico a te, non certo a Paolo Blues. Grazie. Comunque, grande band, grande blues. Key blues. Key blues. Key blues. Key blues. Allora, diciamo che prima di essere quel grande gruppo che sono stati e che comunque... Lo sono dal 1959. Esatto. Era un trio blues che suonava sulla West Coast, quindi un blues molto particolare, quello che si faceva tipo in California, Los Angeles, Santa Monica, questo tipo di blues. E veniva, era un trio che veniva chiamato The Blue Velvets, appunto dal blues che suonavano. Poi più tardi nel tempo sono diventati i Creedence Clearwater Revival. Proprio nel 68, quando c'è stata l'esplosione del rock con Woodstock, poi nel 69, comunque con Jimi Hendrix, con i Beatles, con i Rolling Stones. Negli anni, proprio come stai dicendo tu, infatti si è aggiunto poi il quarto membro. Membro, nessuno ha accolto la mia massima. No, abbiamo proprio accolto. Guarda, è così proprio. Però mi hai fatto uno sguardo, Lorenzo. Da quinta le ho detto che quello che volevo. Che schifo, volevi il membro. E questo volevo il tuo sguardo. E il quarto componente. Ok, Andrea, non ci vedremo mai più. Era Tom Fogerty, il fratello maggiore di John. Che era già nel gruppo. Che gruppo! Grazie Cicillo per Wikipedia, sempre presente. Insomma, poi purtroppo... Sì, sì, e io purtroppo sì. Cosa? Niente. No, stai dicendo purtroppo sì. Sì. Quando è purtroppo, purtroppo è purtroppo. Purtroppo, vabbè. Comunque, dai, un sacco di pezzi comunque dei Creedence sono... Pezzacci. Pezzacci, ok. Sono stati valutati, rivalutati, non lo so, comunque utilizzati in molte colonne sonore di parecchi film. E molti pezzi sono anche contro la guerra del Vietnam, se non sbaglio. Sì, era una band abbastanza impegnata nella musica che faceva, a differenza di magari i Lynyrd Skynyrd, che erano impegnati per altro, su altre tematiche. Loro avevano quella forse, diciamo, scia di che si viveva negli anni in 70 anni lì, in America, quella che faceva poi parte di tutti i giovani, cioè era parte di tutti i giovani dell'America. Lo vivevano in prima persona, un po' hippie anche. Diciamo, erano forse il cavallo di battaglia di queste persone. Poi un sacco di canzoni, come stai dicendo tu, sono state anche reinterpretate da vari artisti. Tipo il primo che mi viene, che pensando a Cicillo, è Marilyn Manson. Pensando a Cicillo. Eh sì, no, perché ci sia qualche affinità, particolare affinità, sì. Perché so che gli piace molto, vero? Cioè i primi album. I primi album, sì. Ti sa ciò, Hella. E dopo queste digressioni veramente poliedriche dei nostri Petrona Boys e del nostro encomiabile Lorenzo Blues, passiamo, direi... Inconiabile? E meno male una moneta, se no tu a Lorenzo Blues assieme chi frappè. E questo è Gary Moore in arrivo. Che coraggio, sei proprio un coraggio. No, ma c'è, scusa, negando il tuo essere frappè. Sì, è chiaro, sei un ipocrita. E questo è Gary Moore, caro Lorenzo. No, mi devo sollevare perché c'era un'altra. No, questa è una canzone che dedico a te. Ah, no, fammi parlare, non ci può di niente. Infatti, no, ma sto parlando. Mi hai staccato le cuffie. Boh, però visto che stava già parlando. Sono dei porci. Scusate, perché non mi sentivo più. Allora pensavo che si avevano tagliati. Esatto. Io direi che c'era un'altra canzone prima, che è passata, è iniziata prima. Ma io volevo dedicarti questo. Ma io volevo sentire quella. Lui voleva che tu gli dai. Ah, va bene. Ma l'abbiamo già presentato, però. Che cosa? Vabbè, la presento io. E vai. Dai, non fare il pagliaccio. Che cosa? Chi? Vabbè, posso dire nome e cognome, sì, di chi, esatto, l'ha scritto e il titolo? Vai. Mississippi John Dolore o Colpo dovrebbe essere. Ce n'era un'altra ancora prima. Ma che c'entra? Ho detto che ne presento una io. Non ho detto una scavallata a tutti i due. Infatti, sì, dai, è proprio il passaggio dai Creedence, che sono. Comunque... Nora Giovanni, devo fare. No, quella che è ancora prima. Poi zi, prima Portoni. Non ce n'è. Ci sono le porte. E le porte era quello che volevi passare tu. Però quella non la passiamo. Perché? Non passa neanche quella di Andrea. Perché? Abbiamo detto che passo quella che dico io. Mi pare giusto. Ma no, sono dei porci. Che poi è bello che Mozilla Bros. Potete capire come si fa una trasmissione. Tipo, questi sono i discorsi da una settimana prima della trasmissione. Noi ve li facciamo sentire in diretta. Preparati con minuzia di particolari. Facciamo una votazione. Dovete sapere, cari ascoltatori, che Gattonian. Eh? Sì. Gattonian, sì. Entropia. No, non parli. Vabbè, passiamo alle porte. Sì. Fortuna. Dai, una bellissima canzone. Fortuncini. Delle porte che... Ciao, ti amo. Ciao. Vai. E finalmente gliel'hai detta. Ma lo sapeva già. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Sidewalk crouches at her feet, like a dog that begs for something sweet. Do you hope to make her see you fool? Do you hope to pluck this dusky jewel? Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Vorrei pregare il signor Paolo Follino di aumentare la luminosità dello schermo. Grazie. C'entra la luminosità dello schermo, solo acceso la luce perché non ci vedevamo neanche in faccia. Per favore, dai. Chi ti vuole vedere? Siamo tornati in trasmissione. Questo è i Mozilla Bros. Ogni tanto fa bene ricordarlo. Siamo in trasmissione su Ciroma ogni mercoledì dalle 7. Volevo dire 7 e mezza, però saremo teoricamente alle 7. Abbiamo un annuncio. Vai. Prego. Buonasera. Vi devo dire una cosa. Che cosa? Mi dispiace che se ne va un grande giocatore della Juventus. Una leggenda. Il migliore giocatore d'Italia, Alessandro Del Piero. Ma per ha scelto lui. Un applauso ad Alessandro Del Piero, una grande leggenda del calcio italiano. Ciao. Buono. Non se ne doveva andare. Siamo tutti quanti. Guarda, dicevano lo stesso di Gesù. Affranti, veramente affranti. Comunque, volevo dire che con le porte. Stavo dicendo che eravamo in Mozilla Bros. Siamo sempre in Mozilla Bros. Siamo tanti. Quando eravamo giovani eravamo in Mozilla Bros. E l'ultimo pezzo che abbiamo passato era dei Doors. Delle porte. Il cui nome è I Love You. E poi continuerebbe Won't You Tell Me Your Name. Vabbè, cioè, dimmi come ti chiami. Diciamo che è un po' tipo Montana Lira questo pezzo. Perché solo analisi approfondite di Mozilla Bros. Esatto. Pezzacci e analisi approfondite. Esatto. Sai, Lorenzo, The Doors, le porte. Sai perché? Sì, sai perché The Doors? Perché prendono il nome da, diciamo, un saggio breve di William Aldous Blake. Huxley. Non di William Blake. Le porte alla percezione. Non di William Blake. Ed è un'opera che parla. Paolo mi guarda come per dire. Ti hai già capito? A volo. Te conosci il genere. Parla di quei voli pindarici della mente sotto l'uso di sostanze psicotrope particolarmente efficaci. Che lessico, però. Hanno dato dei frutti alquanto graditi, direi. Sì. I Doors ne sono un esempio, ma non solo loro. Ne abbiamo parlato più volte dell'effetto che la droga, quella che comunemente si chiama droga, ha dato alle più grandi opere, oserei dire, delle ultime decadi del nostro musica, secolo diciamo. Passato, no? Come le sfingi, diciamo. Le spingi. Le spingi. Smettila che sei un po'. Come le sfingi? Direi come le spingi. Wow. Hai fatto un paragone. Un volo pindarico. Che come non la fontana un cazzo di giugno. Ah, bravo. Come hai citato la massima arte, voglio dire. Io direi di smetterla. Delle capitali d'Italia. Di smetterla. Smettiamola. No. Smettiamo? Sì, smettiamola. Hanno smesso, dai. Allora, dai. No, mi sono perso un pezzo. Cos'è? Che cos'è? Niente. Perché lo ritake yourself. Stacco. Che sfondaccio, Cicci. È uno sfondaccio. Anche se questo si presta a facili interpretazioni, diciamo. Comunque, ritorniamo al lato nerd della trasmissione, perché... Chi frappè? Oh, è stupido. Noi diciamo cose serie, scientifiche, meno zichichi, direbbe così. Cosa? Praticamente parleremo del nuovo malware trovati dall'azienda di Kaspersky, o Kaspersky, io non ho mai capito come si legge. Kaspersky. Tu, Cicillo, lo sai? Io leggo Kaspersky. Ma in realtà, essendo russo, dovrebbe essere Kaspersky. Vabbè, comunque non ci ha fatto un cazzo. L'azienda russa, famosa per... tutti la conosceranno per gli antivirus, per il suo famoso antivirus. Praticamente, Kaspersky ha annunciato la scoperta di questo nuovo malware, a cui è stato prontamente dato il nome di Flame, perché nel codice c'erano queste stringhe qui. Praticamente... Anche dietro questo malware, come era stato prima per Stuxnet e per Doku, sembra esserci dietro la mano di qualche governo o comunque servizio segreto. Perché? Perché è estremamente complicato. Noi avevamo già parlato nelle precedenti trasmissioni di Stuxnet, che addirittura aveva portato al blocco delle centrali centrifughe nucleari iraniane. Te la posso dire una cosa? Stuxnet mi sa tanto di Skynet. Cioè l'intelligenza artificiale che... No, quella la programmerà Luca Bruno, sì, in un, sì, pomeriggio che, che non, ha non gli funziona fare il gioco. Praticamente questo Flame è molto molto più complesso, anche perché è molto più grande. Sembra che il core del programma sia 6 megabyte, poi con tutti i moduli attivi arrivi anche a 20 megabyte. Praticamente è stato scoperto nei computer iraniani dei territori, tra virgolette, molte virgolette, occupati dai palestinesi su Israele, cioè vedi tu proprio come si rigira la realtà. Strane coincidenze, già. Strane coincidenze, e infatti queste strane coincidenze fanno pensare che dietro questo nuovo pezzo di malware ci sia o Israele o gli Stati Uniti, tanto per cambiare. O magari tutti e due insieme. Sì, sì, sì. Comunque, a differenza di Stuxnet che attaccava gli impianti industriali SCADA, questo qua è un vero e proprio sofisticatissimo Trojan che trasforma il computer infetto in una vera e propria microspia. Si possono attivare microfoni, webcam, furto di documenti attraverso canali cifrati. Cioè, detto così sembra che sia un Trojan normale, ma non lo è, perché per esempio ancora non sono uscite tantissime notizie al riguardo. Però a parte il modo in cui si propaga, che sono un po' i soliti modi, tipo pennetto USB o rete, è molto cauto nel propagarsi. Infatti è stato scoperto adesso nel 2012, ma sembra che sia in circolo addirittura dal 2010. Addirittura io leggevo alcuni nomi di file, sono stati trovati in un computer europeo, il che ammorba ancora di più la situazione, parecchi anni fa. Comunque non è normale, perché per esempio riesce a infettare un computer Windows 7 totalmente patchato. Quindi anche se ancora non è stato trovato, sembra che all'interno del suo codice ci sia uno zero day, almeno un zero day. Esatto, io volevo dire giusto una cosa, giusto per avere un po' più carte con noi non saltiamo a nessuna conclusione, però diciamo che ci piace dare ai nostri ascoltatori tutte le, diciamo, gli elementi per io direi che noi non saltiamo. Bisogna ricordare che... Come? Io direi che noi non saltiamo. Ah, ok. Andiamo avanti. Vabbè, grazie Lorenzo. Stavo dicendo... Sì. Mi sono perso, voglio... Che appunto, Stati Uniti e... Non me lo emozionare. Stati Uniti e iraniani sono i più avanti nell'utilizzo di tecnologie informatiche come il mining per, loro dicono, predire attacchi terroristici. Giusto in due parole, il mining comunque sfrutta tutte le nostre informazioni per capire in maniera automatica i nostri comportamenti, dai nostri appunto dati che chissà chi ci furta, oltre agli smartphone. Picazzano. Cioè, perché questo Flame, ragionando un po', deve stare proprio ad ascoltare, a mettersi là queto queto, a sniffare le nostre abitudini? A sniffare appunto questo tipo di dati che poi finiranno per essere analizzati e venduti. Da chi? E ricordando il fatto che questo virus come Stuxnet, dato che appunto per la sua complessità, non si ritiene, molti non ritengono probabile che sia opera di hacker, diciamo così, cani sciolti, ma che ci sia dietro un'organizzazione abbastanza più professionale. Sì, e comunque visti gli obiettivi che comunque sono target militari, sembra che comunque appunto lo scopo sia, cioè dietro ci sia appunto un governo. Non sappiamo le conclusioni noi. No, ma non lo dico, non è che mi sono svegliato io a dirlo, lo dicono tutti. Ehi, voglio, chi c'è, mo? Chi cazzo ti infetta l'Iran ai territori israeliani? E ti sente tutte le conversazioni. Stai un po' saltando a conclusioni, comunque. Potrebbero essere gli alieni, in effetti. I rettiliani. Il Papa. E che ho scoperto che il nostro amico Nosendai la notte va a girare Hidden Service, e con piacere estremo capisce che le sue teorie sono condivise da altri pazzi nel mondo. Sì, sì, tipo gli Dance Service, per esempio, si può trovare un sacco di gente che è convinta che l'intera esistenza umana sia un grande complotto, ci siano alieni, rettiliani, Cthulhu, cospirazioni ovunque. Cthulhu. Insomma, è un bell'ambientino, vi consiglio di fare un giretto. Ambientino un po' dark. E abbiamo un commento sull'antivirus di cui avete parlato, ovvero Kaspersky o Kaspersky, come cazzo si chiama. E il nostro nerd aggiunto di oggi, Andrea, voleva dire una cosa su questo antivirus. Che posso dire una cosa? Volevo sottolineare le piccole gioie di questo antivirus, che quando, insomma, quando si trova un virus fa un po' cacare sotto, che fa un wii, wii. Insomma, io non lo so fare. Che sembra un maiale scoiato. Sono gioie, cioè. Scusate, io non ho capito come fa, però. Tipo, è molto meglio dell'armonico, di... Forse riusciamo a dare la replica dal suono. Vi si sostituirà. Tipo un maiale scannato. Tipo Kirodaccio Vampires. Sì, sì. Già mi sciamba. Dopo che prontamente l'aiutante si offre, vero? Come? Dice mi sciamba. che ci tengo a precisare, non è Andrea Blues che lo dice, perché vai, ripetilo al nastro proprio. In loop. In realtà... Dice mi sciamba. In realtà è uno strogoto. Salla lo sto bracciante, ma che ne è? Un longobardo bracciante. Manco una trempa. Non lo so. Beh, io direi che il prossimo pesto ci aspetta. Pesto? Sì, ma mo passo il pezzo che avevo detto prima io. Vai. Pesto è besciamella. Ah, di quello. Così però fai lo Giorgio qua. Giorgio non c'è. Vorrei ricordare. sta tagliando. Si è aperto un negozio di sartoria. Mi dice Andrea. Con le sue nuove forbici sta cominciando comunque a fare qualche ricamo. Comunque volevo dire una cosa. L'ospite di prima che ha parlato è il nostro altro Andrea, che però non è un Andrea Blues, è un Andrea un po' metal, diciamo. Andrea metal plus plus. Sta dirottando anche lui verso il blues. Lo stai corrompendo. E sì. Questo qua è Mississippi John Hart. No. Una zecco una, porca troia. Batare getta un enzo blu. Questo è Gary Moore, dedicato a te. E che blues, grazie. Michelle and old Bourgeois Wayne, and I recall that you were mine in those crazy days. cazzane. Yucky Blues, i cazzane. Questo era un grandissimo Gary Moore con Paris in Walkways. E i suoi bending, diciamo. Gary Moore e i suoi bending. Gary Moore e i suoi infiniti bending. Ma dato che siamo a un'ora di trasmissione, i nostri nerd ci hanno chiesto un permesso speciale per citare, per ciarlare su, su alcune news nerd davvero importanti, vero? Sì, sì, non davvero importanti, ma comunque interessanti. Per esempio, la Cina si evolve nei suoi metodi di censura. Ha sfoggiato un lato più umano o ludico, ovvero si va a punteggi. Infatti è uscita la notizia che il popolare in Cina Sina Weibo, che sarebbe una specie di Twitter cinese, sarà vietato postare commenti che incitano alla rivolta, al dissenso. Però la cosa carina è che è a punteggi. Sì, dico, infatti, quello che stavo dicendo, fin qua niente di nuovo, perché voglio dire, figuriamoci se in Cina puoi incitare alla rivolta popolare o cose del genere. Ma qui si vedono per esempio i primi effetti dello scoppio della centrale nucleare in Giappone. Ha colpito i cinesi, colpito che hanno Lorenzo. Partorito questa cazzata colossale. Vale a dire, questa piattaforma di microblogging ti permette di perdere o acquisire punti. E in base a questo, diciamo, il tuo account ne risentirebbe per quanto riguarda la pubblicazione di post. Si parte da un punteggio di 80 punti, li puoi incrementare se lasci informazioni poco sensibili come il numero di telefono o il numero di serie della propria carta d'identità per non essere rintracciati, sempre questo. Forse si può anche per incoraggiare il rispetto alla privacy. Ma sì, c'è qualcuno che dà questi punteggi oppure sono gli utenti stessi a No, decretare? No, no, allora tu parti da è come sulla patente. La patente te la c'è, cioè, tu parti 20 punti. 20 punti. Poi, per esempio non lo sapevo. 20 punti. Fai una cazzata. Se 4 anni non fai una cazzata, te ne danno tipo 4 bonus. No, se questo qua ancora non lo sanno i cinesi, ma penso che lo copieranno, se tipo un premio fedeltà per essere un bravo servo del regime. Bravo cinese. Tipo dicono: ma cos'è sto Pirate Bay? Fatto. Non ho capito un cazzo. Dun dun dun dun dun dun, te lo tocco io. Ti scalano punti. Capì? Quindi se tu pubblichi Pirate Bay, non è che pubblichi. Se scrivi parole che rientrano nella loro ciotia, ti scalano i punti. Ma, cioè, è una ciotia iscriverti a questo programma, allora. Cazzo che ti frega. Cioè, se vuoi fare microblogging, magari puoi, forse lo puoi fare solo da lì. Twitter. Eh? Qual è il problema? Però, no, ma anzi, proprio allegrissimi per sta cosa. Se c'è qualche cinese in ascolto, ricordiamo di usare Tor. Però non è che dall'altra parte del mondo si sta molto meglio. Alla fine abbiamo sempre detto, tutti i governi tipo fanno i paladini della rete quando si tratta di cazzi di altri governi, tipo vedi l'Europa per il Nord Africa. Però per esempio quando si parla di casa propria anche loro vanno di censura o di controllo, come il caso per esempio dell'America, degli Stati Uniti d'America, che praticamente è stata pubblicata dopo una richiesta formale. Lì c'è una legge che adesso non ricordo come si chiama, però praticamente consente, dopo un po' di tempo, obbliga il governo a dare dettagli riguardo per esempio un sistema di monitoraggio. Per esempio è uscita fuori questa lista delle parole monitorate sì, sulla rete. Infatti è uscita questa bella lista un po' strana, perché per esempio fra le parole monitorate ci sta pork, cloud, vabbè, poi Al-Qaeda, prevention. Pork, cloud, yeah. cioè nuvola. Ma secondo me nuvola è per il fatto dei droni. Potrebbe essere una chiave di lettura. Pork è per Spider-Pork, che ha la divisa rossa, quindi... Anticomunisti come al solito. E poi vabbè, Al-Qaeda lo sappiamo, insomma. Comunque sì, questo monitoraggio si dovrebbe occupare sia della salute, a quanto pare, motivi di salute, sia della sicurezza interna del paese. Per esempio compare Cina scritto in inglese, ma non per esempio in tibetano. Non lo so, o secondo me gli hanno detto, vabbè sì, dagli la lista delle parole crociate che ho fatto io e pubblichiamola. Oppure veramente questi meccanismi di controllo sono molto oscuri. Però comunque sarebbe molto divertente se qualcuno iniziasse a scrivere bot. Per esempio iniziamo a postare in rete tante frasi con questa lista di parole. No, oppure con parole chiave di uso completamente comune, in modo che chiunque viene schierato e zumpa tutto quanto. Cioè casa, per esempio, che cazzo? Telefono, cacarella, per esempio. Cacarella. Cristo. Chiaro. Comunque, dopo avervi aggiornato su questi ultimi risvolti della nostra cara realtà virtuale, passiamo a una realtà molto più reale, togliamo il microfono a Lorenzo che si prepara a mandare qualche stronzata e annunciamo lui, che è già annunciato, il cantante. Ma che diavolo vuoi sapere tutta questa roba? Dai Lore, che ci devi far sentire. Sono uomo di blues. Ah, uomo di blues. Cos'era? Illumina, rendici partecipi. Lore, illuminali che non sanno cos'era. Cos'era? Blues. Niente, no, niente. Semplicemente credo sia giunto il momento entropia, per cui ho aggiunto un pizzico di... Vabbè, ci tocca. È giunto il momento che fra poco ci cacciano a calci se non facciamo qualcosa. Dai, è tardissimo. Ma è pronto questo cantante? Cantante? Sì, sì, sì, vieni qua, vieni qua. Il trucco sta schiarendo la gola, raschiando il catarro, ampliando l'espansione polmonare, inibendo l'inibizione. No, vai a fare vieni a fare la canzone di là in regia. Stiamo cercando di smistare il cantante. Voleva leggere una poesia il nostro cantante, ma la puoi improvvisare. Sì, meglio improvvisare. Entusiasmo per l'improvvisazione. Improvvisa una poesia. Grazie. Ed ecco che Marina prende per il braccio il cantante e lo conduce. Di forza, che era un po' confuso tra una sala e un'altra. È tardi. Cantante, cosa ci canti oggi? Guagno. Buonasera, vi canto una canzone di Carla Bruni. È origine italiana, non lo so se la conoscete. No, la moglie del presidente, ex presidente francese? Sì, Sarkozy. Ok. E fa così, in francese. Qua, è il titolo qualunque. Je ne vois pas, je ne vois pas, well, is danger, well, is the, well, is the, hello, well, is the, well, is the, hello, love, well, is the, well, is the, well, is the, well, is the, well, is the, well, is the, le. Will a fool, will a la say, will a fool, will a la fair, will a stay. Non lo so se posso cantare pure una canzone in italiano. Non posso. In tedesco ne sai. L'ultima. Ah, ok. Aspetta. Fa una poesia. Improvviso una poesia. Prima se canzone in italiano, aspetta. Aspetta, che mi... Concentra, gli ha da venire la canzone. Là dove via Gluck, no, questa la conoscete, penso. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città. In mezzo al cielo, in mezzo al verdor, ma dove sarà? In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? E del cemento erba c'è una città. In mezzo a casa, in mezzo al verdor, ma dove sarà? Chissà, chissà, fin dove sarà? Fin dove sarà? Chissà, chissà, fin dove sarà? Fin dove sarà? Buona serata al grande Adriano Celentano pure. Ciao. Grazie, cantante. Pure una poesia. Grazie, cantante. O basta. E quindi siamo in chiusura, noi siamo in Mozilla Cross, vi abbiamo parlato dalle onde di 105.7 Radio Ciroma e ci trovate anche in replica su Radio Transizione di Fase e su Fuori Onda Radio, quella là. Forse venerdì alle forse 18.30. Siamo lieti di avervi avuto qui in trasmissione. I nostri podcast sono tornati a essere regolari, vero? Come proprio un orologio. È da circa un anno che li si rigestisce Cecilia, è da circa un anno che sono regolari, finalmente. Iniziamo comunque il nostro delirio ogni mercoledì alle? Alle 17 e tot, diciamo. 19, scusate, E ricordiamo anche il nostro sito internet www.mozillabros.com. E ciao. Ciao, ciao. I contatti allo 0984 quando 28250. 0984 quando ci volete chiamare. Sì, se fate il provvisto di Cosenza vi rispondiamo, no? Però avvisiamoli. Noi chiudiamo la puntata, ma non andate via, perché ci sarà la solita performance artistica appena chiudiamo del cantante. Sì, sì. Singed. Singer. Quindi nel singed che ricordiamo Luca Bruno. Ciao Luca. Ciao Drogato. Alla prossima. Mozilla Bros. Pop. Hikazana. Invento una canzone. Con questa canzone bellissima. Questa canzone bellissima in inglese. Che c'è. Ci hanno fatto pure un film. Sono i The Platters. Quando si sono incontrati al film Polo Village con Renato Pozzetto. Se vi ricordate questo film, c'era questa canzone. L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore. L'aurora di bianco respiro. Io mi rincontrerò sopra una spiaggia morbida come la neve. E come i tuoi baci, come le tue labbra, ti vorrei accarezzare dentro il mare. Questa donna c'è un bel incontro, si incontrano e si abbracciano. La donna si mette a piangere, l'uomo si mette a piangere. Non è che è una scena di cinema. Può darsi. Questa è una storia bellissima. Fa emozionare. Poi nasce un amore. Poi nasce cosa. E poi è nato un bel amore. Protettivo di tutto. Di sensibilità e di tutto. Di tutto quello che c'è, che si può dire. La donna c'ha belli capelli lunghi, gli occhi celesti smeraldo. Seno prosperoso. L'uomo ci luccicano gli occhi di castano, di quel bel castano, di quella goccia di rugiada. La coppia si vuole tanto bene che forse non si sa se si sposeranno, forse. Ma poi, scusa, lo sai che succede? Va alla chiesa e dice non lo voglio. Va dal prete e dice non lo voglio, voglio un altro. Questa cosa non si potesse fare in chiesa. Purtroppo questo l'ha fatto. È andato in chiesa. Ha detto sì e poi ha detto no. È una cosa strana questa. Prima voleva bene, poi è finito tutto a una volta. Non si è capito niente. Chi ci avete a fare in chiesa? Ci avete pensato prima del tempo? Prima dice, sì e poi dice no. Fa brutta figura allo primo. Ha detto prima vi sposate, poi si piglia un altro uomo. Non sa che se c'è. Ha detto voglio a te, non voglio qua, all'altro. E come piace, si è comportato male. Ha alzato le mani. Un prete ha detto scostumato, ha tirato la campanella. La chiesa. Ma che fai? In chiesa non si fanno queste cose. Poi il prete cantava. In chiesa si può cantare, ma il prete non ha mai cantato. Succede certe volte. E chi cantava proprio io? Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Che bella coppia, ha detto prima. Ha detto prima va uno e poi va un'altra, non si capisce niente. Non lo so. Vabbè, poi è finita là e si sono sposati con questo. E sono vissuti felici e contenti. Il principe azzurro è arrivato. È andato in rospo e poi è diventato donna. Buona serata, ciao.